sense of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Some folks like to get away. They take a holiday from the neighborhood. Have a flight to Miami Beach or Hollywood. And I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind, sono in uno stato mentale newyorkese, dice il vecchio ragazzo sempre ammirabile Billy Joel in questa canzone, che è uno dei molti inni dedicati a la città con la L e la C maiuscola, quella che o la si ama o la si odia, ma diciamo francamente in linea massima la si ama. Ma come sta la città di questi tempi, immersa nella crisi che l'ha travolta e che in un certo senso ha anche avuto origine al suo interno, no? Nella zona di Wall Street? Come sta la città dove i prezzi delle case crollano, gli sfratti sono all'ordine del giorno, i posti di lavoro finiscono smarriti e dove la qualità della vita sembra poco alla volta scendere lungo questo ventunesimo secolo, che forse non le appartiene completamente come il precedente? Oggi vogliamo dedicare un ampio spazio a questa piccola indagine sulle condizioni salute di New York, e per questo motivo abbiamo chiamato un giornalista che è tornato negli Stati Uniti a vivere e ha preso casa e base operativa proprio a New York, ovvero Federico Rampini. The New York Times, Daily News. Noi ci siamo abituati negli ultimi anni, visitando di frequente New York, a vederne l'ultima mutazione. No? New York, in un certo senso, Federico, stava diventando un po' il parco a tema di se stesso, no? La celebrazione della metropoli in tutti i suoi pregi, anche in tutti i suoi vizi più estremi. Però ci si rendeva conto che tutto ciò, come dire, era abbastanza circoscritto a un quadrilatero. No? Poi andando, spingendosi un po' più fuori la città, già si vedevano i primi segni delle crepe, che poi sono quelli che invece tu racconti nel tuo articolo oggi sono il primo significato di questa città, una città con il fiato corto, stremata. Sì, è una città che nell'ultimo anno di crisi economica ha perso 40.000 posti di lavoro solo nel settore bancario a Wall Street e 100.000 in tutto il settore privato. Una città dove le vendite di case nei quartieri più popolari sono crollate persino del 50%, ci sono 70.000 appartamenti che aspettano l'arrivo dell'ufficiale giudiziario per il pignoramento, perché i loro proprietari hanno smesso da tempo di pagare le rate sui mutui. Persino in fondo quella città che evocavi tu prima, cioè questa specie di parco tematico di Disneyland di se stessa, che era diventata New York, beh, anche lì c'è la crisi, perché gli alberghi, ripeto, escludendo la settimana delle Nazioni Unite, hanno visto una caduta di fatturato del 35% negli ultimi 12 mesi e fanno degli sconti pazzeschi. Certo. Nonostante l'euro a $1.47, il turismo langue e chiudono per bancarotta dei luoghi che appartengono alla leggenda di questa città, ristoranti come la Tavern on the Green, che molti italiani conoscono perché è immersa nel verde del Central Park. Quello con le lucine, quello con le lucine che si vede in tanti film. Quello con le lucine, certo. Il Café des Artistes vicino al Lincoln Center, dove andava a cena Lorin Maazel. La Rainbow Room, magnifica, certo, per la veduta su tutta Manhattan, perché si trova al Rockefeller Center, chiusa anche quella. C'erano stati negli anni d'oro, da Frank Sinatra a Bob Dylan, l'aveva posseduta la famiglia Cipriani, quella dell'Harris Bar di Venezia, chiusa per bancarotta. E questi sono alcuni dei segnali, ma ce ne sono altri anche più estremi. La città di New York ha un bilancio in deficit, dovuto intervenire Washington, il governo federale, con un finanziamento tampone di $11 miliardi, ne basta solo per pochi mesi. Stanno addirittura vendendo camion dei pompieri e auto, certo, e ambulanze usate, certo, per, certo, cercare di rappezzare, certo, i conti del municipio. Ecco, siano avvisati i collezionisti. Del resto, chiunque, credo, mi iscrivo tra costoro, sia stato utente di alberghi a New York, magari cliente abituale, può verificare quanto sta raccontando Rampini adesso. Arrivano mail, no, a sprombattuto, che ti offrono ogni possibile combinazione, purché tu vada a farti un giro a New York. Ma Federico, proprio a proposito di management della città, volevo sapere da te qualcosa in più come impressione, come punto di vista, perché insomma il sindaco di New York, a lungo in odore di una possibile candidatura presidenziale, era giudicato il manager tra i manager e colui che forse avrebbe potuto salvare l'economia americana, ma da quanto dici non salva neanche l'economia della sua città. Ma le responsabilità si suddividono, certo non è colpa del sindaco se c'è stata, certo, una, certo, recessione globale che ha avuto il suo epicentro iniziale qui a New York, ma la colpa non è del sindaco, la colpa è dei banchieri di Wall Street, e lì le responsabilità semmai riguardano le authority di vigilanza e di controllo che non hanno fatto il loro mestiere, la banca centrale, la Federal Reserve. Quindi il sindaco è impegnato in una battaglia disperata per contenere, tamponare gli effetti sociali sul tessuto sociale della città di una crisi che è stata scatenata da un pezzo della città, Wall Street. Detto questo, sicuramente è un sindaco in gravi difficoltà, che però probabilmente verrà rieletto, proprio perché i newyorkesi tutto sommato hanno abbastanza fiducia in lui e soprattutto sentono di aver bisogno di una persona che capisce di economia, che ha fiuto negli affari, lui ne ha sicuramente. È l'ottavo uomo più ricco degli Stati Uniti, con un patrimonio personale di 16 miliardi di dollari. Però ecco, questa è una città che oggi scopre di avere delle risorse che sono veramente all'opposto della sua immagine più tradizionale, cioè considerata la capitale globale del capitalismo. Wall Street è probabilmente il luogo più emblematico, certo, della potenza di New York. Ebbene, oggi per riparare fatti da Wall Street si scopre che i settori della città che hanno tenuto meglio sono le istituzioni culturali, cioè le università, che sono una parte importantissima anche dal punto di vista economico per i posti di lavoro che hanno, e perché attirano studenti da tutto il resto del mondo, i musei, gli spettacoli culturali, i concerti, le mostre, perfino Broadway, che ha avuto difficoltà, ci sono stati dei musical che hanno dovuto abbassare i prezzi perché altrimenti non si riempivano i teatri, ma insomma questa parte, la parte di New York che è produzione di cultura, è quella che ha retto meglio. Per concludere, Federico, nella chiusa del tuo pezzo c'è un accento promettente, insomma ottimistico. Citi uno storico della città che dice: attenzione, posti come New York, occhio, non muoiono mai, non scommettete contro questa città. E Barack Obama, andando da Letterman l'altra sera, ha amplificato questo discorso nella conclusione, dopo insomma aver passato in rassegna i temi della crisi, gli ostacoli che ha di fronte nella sua presidenza. Però ha detto: se facciamo le cose nel modo corretto, diventeremo più forti di prima, addirittura stronger, gli ha chiesto Letterman. Lui ha detto: sì, più forti di prima. Ecco, è una proiezione che ti senti, in quanto in questo momento anche cittadino ospite di New York, di produrre anche nei confronti di New York. Vedi in un futuro, magari non troppo lontano, un ritorno alla grande centralità, no? Almeno occidentale, di questa città. Che ne dici? Dunque, sicuramente questo ottimismo proiettato sul futuro ha le sue radici nell'esperienza storica di questa città. È vero che New York ha già avuto in passato delle crisi spaventose, l'ultima che viene in mente naturalmente è l'11 settembre, certo, da cui seppe risollevarsi con una vitalità ammirevole, ma prima di allora ci fu la grande crisi degli anni 70, crisi anche economico-finanziaria, che fu da cui New York uscì grazie a un uomo della provvidenza, un grande banchiere, Felix Rohatyn, della banca d'affari Lazard Fair, che seppe mettere in piedi un piano di salvataggio delle finanze di New York. Poi ci fu Rudolph Giuliani che risollevò New York dalla crisi della criminalità. C'era un periodo in cui New York era diventata la città con il tasso record di omicidi di tutta l'America, adesso è una città relativamente sicura invece. Quindi ha avuto dei momenti di grande sofferenza in passato da cui si è risollevata. Questo dovrebbe dare fiducia sul futuro. Oggi io da abitante di New York ho soltanto una preoccupazione sulla tenuta vitalità di questa città, cioè venendo proprio dalla Cina mi accorgo quanto New York è diventata una città in declino nella qualità delle infrastrutture, gli aeroporti, le autostrade, le strade, la metropolitana. Certo. Tutto sa di vecchiume. Certo. Sembra una città, paradossalmente venendo dalla Cina, questa sembra una città antiquata, sembra una città del Novecento che non ha saputo fare il salto soprattutto negli investimenti in infrastrutture pubbliche, ecco, che cascano a pezzi. E questo paragone vale anche con certe città europee, cioè la metropolitana di New York è una patetica caricatura in confronto alla metropolitana di Londra e di Parigi, per intenderci, perché quello che ha perso un po' la classe dirigente locale, questo devono ritrovare, perché altrimenti non ce la faranno, è la curiosità di confrontarsi con il resto del mondo, di andare in giro per il mondo a vedere chi è più avanti di loro, chi fa le cose meglio e che cosa dovrebbero imparare. È diventato un po' troppo autoreferenziale e ripiegata su se stessa. Questi forse sono proprio i rischi di essere troppo a lungo battistrada, come è capitato nel progresso lungo il XX secolo di New York. Federico, ti ringrazio estremamente, anche a nome dei nostri ascoltatori, per questi pareri e questi racconti da New York. A risentirci. Grazie. Buongiorno America. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. E si parla di città oggi a Buongiorno America, si parla di città e si ascolta anche una voce che con la città con la L e la C maiuscola, come abbiamo detto, vero, New York, ha tanti punti in comune, ha una sua rappresentatività ben forte, ovvero David Byrne, no? Il leader dei Talking Heads, che di New York è stata in un certo senso la band simbolo per almeno una decina d'anni, e David Byrne continua a essere un cittadino di New York onorato e di essere. E onorario in un certo senso, perché i newyorkesi lo adorano, lui continua a mantenere la sua molteplicità di attività proprio a New York. Adesso ha scritto un libro che oggi, come facciamo sempre il venerdì, vi vogliamo segnalare, sottoporre alla vostra attenzione, perché è un libro stravagante, come sempre è stravagante per l'appunto David Byrne. Lo potete acquistare su qualsiasi sito online, si chiama Bicycle Diaries, i diari in bicicletta, e consiste in una serie di saggetti, osservazioni, aneddoti raccontati da David Byrne e basati sul fatto che lui gira per Manhattan, coraggioso, audace, roba da pirati della Malesia, gira per Manhattan in bicicletta, ma non solo. Quando ha fatto i soldi, come racconta l'introduzione, si è comprato anche una bicicletta portatile che si porta in giro nelle sue tournée per il mondo, in modo che dovunque va comincia a girare in bicicletta. Nei suoi diari di bicicletta David Byrne ha parlato proprio soprattutto di qualità delle città occidentali contemporanee, e ha compilato una interessante classifica, così un po' surreale, ma divertente da leggere e da seguire, relativa alla città perfetta, una città perfetta utopica naturalmente, fatta essenzialmente dal meglio di tutte le città, una per l'altra. Io vi do solo qualche categoria, qualche nome di città che vince, secondo David Byrne, il titolo mondiale in alcune categorie di percezione di queste metropoli del XXI secolo. Per esempio, secondo David Byrne, per la densità, la città perfetta è Los Angeles, dove tutto sommato per incontrare il vicino di casa è facile che si debba prendere la macchina. Invece, quanto alla sensibilità, all'attitudine, alla disponibilità dei cittadini, dà un voto molto alto a New York, dove si sa sono molto bruschi, ma secondo lui hanno tutti il cuore d'oro, noi siamo pronti a credergli, ma però la sua città preferita invece è New Orleans. Per la sicurezza non si batte il Giappone, secondo David Byrne. Ti perdi il portafoglio in metropolitana, il giorno dopo prendi lo stesso treno e ritrovi il portafoglio sullo stesso sedile, insomma, provare per credere. Poi, quanto alla pericolosità, però sexy, come la definisce lui, delle città, secondo Byrne non si battono New Orleans, Mexico City e Napoli, finalmente un nome italiano. Piace molto la scala umana, l'umanità del centro di Londra, a David Byrne, di Soho. Per quello che riguarda i viali, Berlino, secondo Byrne, è imbattibile. Karl Marx Allee è il suo viale preferito. E infine, quanto agli spazi pubblici e al verde, beh, guarda al nord degli Stati Uniti, in particolare il fronte lago di Minneapolis è la sua passeggiata preferita. Tutto questo e molte altre cose da un uomo intelligente che non smette di essere, far funzionare la sua intelligenza, in questi diari della bicicletta di David Byrne. I told all my friends I have to come up here and say thank you and walk off. Questa l'ho già fatta sentire, per cui vado veloce. Lui è Michael Jordan, che ritira il premio più banale del mondo, ovvero la sua ammissione alla Hall of Fame del basket. Tanto se non ammettono lui, chi volete che ammettano. Comunque, molto divertente, assolutamente da segnalare, recuperabile su internet nel magazine del New York Times, un altro libro su Michael Jordan. E voi direte, ancora un altro libro su Michael Jordan? Sì, questo è un libro speciale, prima di tutto perché lo trovate tutto già inserito nel magazine del New York Times, e poi perché è stato scritto da un futuro critico, adesso noto critico, dello stesso quotidiano della Grande Mela, ma quando aveva semplicemente 13 anni. Lui si chiama Sam Anderson. Il libro che dedicò a 13 anni a Michael Jordan si chiama Flight, Vola. C'è tutta l'innocenza, lo stupore, l'entusiasmo, ma anche l'acume di un teenager applicato naturalmente al mondo di un mago. My name is Clarice Precious Jones. I want to be on the cover of the E per concludere, una brevissima segnalazione cinematografica, perché nel mondo del cinema è entrata Oprah Winfrey, che dove va trasforma i consumi in oro. È noto il suo book club, che vende più libri di qualsiasi libreria in America. Adesso si occupa anche di film. Il suo film, da lei prodotto intendo dire, ha appena vinto il Festival di Toronto. Si chiama Precious, ne sentite il trailer in sottofondo. È la storia di una ragazzina praticamente analfabeta negli anni 80, nell'Harlem degli anni 80, e la storia del suo riscatto. I giornali americani sostengono che per Winfrey sia arrivato il momento di dominare anche il mondo del cinema. Ricordate che Oprah è una di quelle, di coloro che ha fatto molto perché Barack Obama diventasse presidente degli Stati Uniti d'America. Sono le storie che raccontiamo qui a Buongiorno America, dove ci sono io, Stefano Pistolini, in redazione c'è Antonella Migliaccio, in regia Alessandro Chiappini. Abbiamo una mail, buongiornoamerica@radio24.it, e una pagina Facebook, redazione Jefferson 3. E andiamo in replica alle poco dopo mezzanotte, la diretta, come sempre, all'1:30. Qui da Radio 24, buon weekend a tutti, state bene. Scoop, scoop, scoop, scoop, scoop.